giovani sposi. A Roma dopo un volo discesero un mattino, lei con la veste rossa, lui in calzoncini blu. Dalle Squilline al Paladin girarono su e giù. Sotto il sol, sotto le stelle d'or, come piccioni viaggiatori. Lei e lui e lì un lì e lì un lì e lì un là. Lui e lei e lì un lì, oh che felicità. Guarda le tirolesi come son belle, con la blusetta rossa e di fiocchi gialli. Li salutavano tutti dei sette colli. Vengono a far la luna di miele qua. Lei e lui e lì un lì e lì un lì e lì un là. Lui e lei e lì un lì e lì un lì lia. Fra strade lunghe e brevi, dal foro al cupolo, sul fontanon di Trevi spiegava un ciceron: gettate una moneta e fate un pensierin, così belli felici vi ritornerete al fin. E il pensier fu quello d'un bebè per ritornare a Roma in tre. Lei e lui e lì un lì e lì un lì e lì un là. Lui e lei e lì un lì, oh che felicità. Guarda le tirolesi come son belli, parlano il romanesco con gli occhi brilli, hanno bevuto il vino degli castelli, ballano il giro tondo per la città. Lei e lui e lì un lì e lì un lì e lì un là. Lui e lei e lì un lì e lì un lì lì.